perfetto giorno di Alessio Maurizi. Iran, ressa umana a Kerman, la sepoltura di Soleimani, morte 35 persone. In Libia, Sirte è battaglia tra le forze di Serraj e quelle di Haftar. Stasera vertice europeo straordinario, annuncia Di Maio. Polveri sottili nell'aria in pianura padana. A Torino domani fermi i diesel Euro 5, in arrivo blocchi anche in Lombardia e Veneto. Al via oggi le iscrizioni scolastiche online per le scuole superiori. Quasi la metà degli studenti è indeciso. Vola al cinema Checco Zalone con oltre 30 milioni di incassi e il re delle feste al cinema. Seguono Jumanji, Pinocchio e Dea Fortuna. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con Effetto Giorno, il punto delle notizie a metà giornata. Questi che avete appena sentito sono i titoli, tra poco, nei prossimi 15 minuti, tutte le notizie in sintesi e poi dalle 13.15 gli approfondimenti. Cominciamo, come avete sentito dai titoli, ancora una volta andando in Iran, dove c'è stata una nuova marea umana per il corteo funebre, l'ultimo previsto in memoria del generale Soleimani nella sua città natale a Kerman, nella calca che si è creata, ci sono state anche diverse vittime. Era mattina presto quando una folla oceanica ha invaso le strade della cittadina di Kerman nell'Iran sudoccidentale. Canti e salmi in attesa del funerale del generale Soleimani nella sua cittadina natale. Una mobilitazione delle stesse dimensioni di quelle organizzate domenica e lunedì a Teheran. E per trovare posti migliori la folla si è accalcata a livelli inverosimili. Alcune immagini diffuse online mostrano scene di panico con persone che giacciono per strada e altre che tentano di prestare soccorso. 35 i morti, almeno 48 i feriti tra la folla, tanto che le autorità iraniane hanno infine rinviato per ragioni di pubblica sicurezza la sepoltura. Un Iran che preme e cerca vendetta contro gli Stati Uniti in una tensione ormai alle stelle. 13 scenari sono stati valutati nel Supremo Consiglio di Sicurezza Nazionale per la vendetta dopo l'assassinio del generale e anche il più debole di questi sarà un incubo storico per gli Stati Uniti, ha detto il segretario del Consiglio, il contrammiraglio Ali Shamkhani. Dagli Stati Uniti arriva invece il retromarcia sulla possibilità di prendere di mira i siti culturali iraniani, o almeno così dice il segretario alla difesa Mark Esper, smentendo di fatto le frasi del presidente. La minaccia era arrivata da un tweet di Trump in cui annunciava che gli Stati Uniti erano pronti a colpire 52 obiettivi, compresi appunto alcuni siti di rilevanza culturale, parole che avevano fatto preoccupare anche l'UNESCO. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'uccisione del generale Soleimani è avvenuta in Iraq, come sapete, a Baghdad. E proprio a Baghdad c'è un gruppo di militari italiani, di carabinieri, che impegnati nella formazione delle forze dell'ordine, delle forze armate locali, che però, la notizia delle ultime ore, sarebbero stati trasferiti militari italiani altrove, in una base più sicura. Ne parleremo tra poco nella seconda parte di Effetto Giorno. Intanto invece veniamo alle reazioni dopo quello che sta accadendo. Come avete sentito, in Iran il presidente Putin ha detto che questo attacco americano può aggravare la situazione. Il premier britannico Boris Johnson ha detto di non rimpiangere sulle mani, ma intanto Francia, Germania e Gran Bretagna hanno chiesto agli Stati Uniti di evitare una escalation in Medio Oriente. Sentiamo questa mattina intervenuto a Radio 24 il leader della Lega, Matteo Salvini. Ma innanzitutto conto che al governo, se un alleato della NATO come gli Stati Uniti decidono un'azione del genere, quantomeno mi avvisino, e conto di avere buone relazioni internazionali per essere in grado di essere avvisato, e non dico di condizionare, ma quantomeno di discutere questi interventi. Per il resto, tutto quello che va contro il terrorismo islamico, il fanatismo islamico, l'estremismo islamico, è a favore della libertà e dei diritti. Sull'altro fronte invece, quello libico, le ultime notizie sono quelle della controffensiva delle forze del premier al-Serraj a Sirte, invasa ieri dai militari fedeli al generale Haftar. Sentiamo. Sirte e Bruxelles. È intorno a queste due città che si decide il destino della Libia nelle ultime ore. Le milizie di Misurata e le forze del governo di accordo nazionale libico del premier di Tripoli al-Sarraj hanno lanciato un'offensiva per cercare di riprendere le posizioni perse a vantaggio del generale Haftar a Sirte. Secondo l'inviato russo di Interfax in Libia, Lev Dengov, le forze del governo di al-Sarraj hanno ripreso il controllo, tuttavia le ostilità continuano ed è possibile che la situazione possa possa cambiare. E mentre sul terreno le cose cambiano continuamente di ora in ora, la diplomazia tenta di muovere qualche passo a Bruxelles, dove, come ha detto il ministro degli esteri Di Maio, si terrà un vertice straordinario oggi su Iran e Libia. Parteciperanno i ministri degli esteri di Francia, Germania, Gran Bretagna, oltre che l'Italia, e l'alto rappresentante europeo Borrell. Non c'è nessuna soluzione militare, ha detto Di Maio. Intanto però, sul terreno, in Libia, si combatte. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo in Italia con la politica. Governo, lo avete appena sentito, alle prese con la crisi libica, ma anche con i temi interni. Domani vertice di maggioranza sulla giustizia. Ancora un rinvio per un accordo che non c'è. Sulla prescrizione il vertice si terrà giovedì, ma la maggioranza è divisa. Alta tensione sullo stop dopo la sentenza di primo grado voluta dai 5 Stelle e dal ministro Alfonso Bonafede, entrato in vigore dal 1 gennaio. Per il no, Italia Viva, ma anche Più Europa e Radicali, che organizzano una manifestazione davanti alla Camera. Il partito di Renzi chiede di trovare un compromesso sulla durata dei processi, altrimenti Italia Viva voterà la proposta di Forza Italia che reintroduce i tempi della prescrizione come erano prima. Il PD propone una sospensione della prescrizione di 2 anni per l'appello e di 1 anno dalla pronuncia della sentenza con ricorso in Cassazione, per un totale di 3 anni e mezzo. Il premier Giuseppe Conte promette un compromesso, tutto però rinviato a giovedì. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E il Movimento 5 Stelle oggi è alle prese con una riunione interna che riguarda le espulsioni, a cominciare da quella di Gianluigi Paragone, mentre un altro movimento, quello delle Sardine, annuncia un congresso nazionale. L'appuntamento è nel primo pomeriggio a Montecitorio, è qui che i 3 probiviri si riuniranno per prendere una decisione sui parlamentari 5 Stelle che negli ultimi mesi non hanno restituito al movimento parte dei loro stipendi. Da mesi il sistema delle rendicontazioni alimenta malumori interni, un dissenso che viaggia in parallelo a quello sulla leadership di Di Maio. I parlamentari a rischio sarebbero una decina, ma difficilmente oggi si deciderà una loro espulsione. Più probabile che gli venga concesso ancora qualche giorno per mettersi in regola con i pagamenti. Uno di loro, il deputato Santi Cappellani, ha però annunciato il suo addio al Movimento 5 Stelle, una fuoriuscita che fa seguito a quelle di Rospi e Angiola e dell'ex ministro Fioramonti, oltre che all'espulsione di Paragone. Nel frattempo, un altro movimento, quello delle Sardine, oggi annuncia che farà un congresso nazionale, la cui data verrà decisa entro fine gennaio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Giornata chiave per Ilva, il Tribunale del Riesame di Taranto decide oggi sullo spegnimento dell'alto forno 2, sul quale i commissari avrebbero dovuto intervenire per migliorare la sicurezza dopo l'incidente mortale avvenuto nel 2015. E oggi invece in Parlamento audizioni sul futuro di Alitalia, ma intanto i conti sono sempre più in rosso. I 400 milioni di euro stanziati dal governo per tenere in piedi Alitalia sono stati versati alla società gli ultimi giorni dell'anno. Le risorse derivanti dal decreto legge del 2 dicembre sono in teoria un prestito con interessi, ma negli ultimi 2 anni Alitalia ha bruciato, senza restituire nulla, i precedenti 900 milioni concessi dal governo Gentiloni. E i conti sono quest'anno in ulteriore peggioramento, secondo i dati rivelati oggi dal Sole 24 Ore. Un rosso operativo per 114 milioni nei primi 9 mesi, contro il meno 36 dello stesso periodo 2018. Le perdite complessive nette 2019 sarebbero intorno ai 600 milioni. Oggi pomeriggio alla Camera sarà in audizione il nuovo commissario Giuseppe Leogrande, a cui il decreto legge affida il compito in 6 mesi di aggiustare i conti della società e impostare una nuova procedura di vendita. E poi i rappresentanti di Lufthansa tra le compagnie interessate all'acquisto e il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dopo 10 giorni consecutivi in cui le micropolveri nell'aria hanno superato i 50 microgrammi al metro cubo, scatta a Torino il semaforo rosso. Da domani non potranno infatti circolare neanche i veicoli diesel Euro 5. La prima volta da quando, lo scorso 1 ottobre, sono entrati in vigore i provvedimenti di contenimento della qualità dell'aria previsti dall'accordo di bacino padano. Blocchi del traffico sono in arrivo anche a Milano e in altre città della Lombardia e del Veneto. Una buona notizia: sale leggermente il reddito delle famiglie italiane nel terzo trimestre dell'anno, secondo l'Istat. Dati in chiaroscuro quelli dell'Istat per il terzo trimestre del 2019. Cresce il reddito disponibile delle famiglie in positivo dall'inizio dell'anno e questo si traduce in maggiori consumi con un aumento della spesa dello 0,4% rispetto al secondo trimestre. Ne consegue una marginale riduzione della propensione ai risparmi. Perde vigore invece la crescita congiunturale pari allo 0,3% rispetto al trimestre precedente più 1%. Resta debole l'inflazione che si dimezza nel 2019,06 rispetto all'1,2 del 2018. Sul fronte dei dati macroeconomici relativi alla macchina dello Stato, i primi 9 mesi del 2019 mostrano un rapporto deficit-PIL del 3,2%, in miglioramento sullo stesso periodo dell'anno prima, 3,4. La pressione fiscale si ferma al 43%, meno 0,1 punti percentuali sullo stesso periodo del 2018. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Al via oggi le iscrizioni scolastiche online e anche quest'anno per andare alle superiori i ragazzi che hanno appena finito le scuole, che stanno per finire le scuole medie, sono molto indecisi, ve lo abbiamo raccontato nella giornata di ieri con un sondaggio esclusivo di Radio 24, quasi la metà non sanno se scegliere, cosa scegliere tra i licei, gli istituti tecnici e i professionali. Tutto quello che c'è da sapere ve lo racconteremo tra poco nella seconda parte di Effetto Giorno. Adesso invece siamo al cinema con il box office delle feste, come previsto il trionfatore Checco Zalone. Tolo Tolo domina anche gli incassi dell'Epifania, che chiudono ufficialmente le festività natalizie al box office italiano. Altri 3,9 milioni di euro il 6 di gennaio, che Cozzalone si porta così a 34 milioni di euro in 6 giorni. Il film precedente, Quo Vado, aveva totalizzato 37,7 milioni di euro. Tolo Tolo quindi è sotto Quo Vado di 3,7 milioni, anche se potrebbe chiudere la corsa con un risultato inferiore al suo predecessore, che arrivò a 65 milioni di euro. In meno di una settimana Tolo Tolo è già uno dei maggiori incassi degli ultimi 4 anni. Buone performance anche per altri film italiani. Il primo Natale di Ficarra e Picone, il primo nelle feste nelle sale, sfiora i 15 milioni. Appena sotto i 14 il Pinocchio di Garrone. Incassano globalmente meno del fenomeno Frozen 2, 18 milioni 700 mila euro in tutto, ma superano l'ultimo Star Wars, che si ferma per ora a 12 milioni e mezzo, e Jumanji 10 milioni 300 mila. Comunque un ottimo risultato, superiore a quello dell'episodio precedente della saga. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 12 minuti, Effetto Giorno fa una pausa, torneremo tra poco con tutte le altre notizie, la sorte dei militari italiani in Iraq, come detto, ma poi anche notizie e consigli utili per le iscrizioni alle scuole superiori, iscrizioni che iniziano proprio oggi, e poi la storia dell'alcol lock, un sistema che blocca l'auto automaticamente di fronte al guidatore con tasso alcolico elevato, un sistema che è già in funzione negli Stati Uniti e che dovrebbe entrare in funzione anche in Europa. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Se volete commentare le notizie di oggi, c'è anche la pagina Facebook di Effetto Giorno. Ci trovate anche su Twitter con il mio account @AleMaurizzi. Ci ritroviamo tra poco dopo il break. Effetto Giorno. Iran, 40 morti nella calca per la sepoltura del generale Soleimani a Kerman. Via i militari italiani dall'Iraq, trasferiti da Baghdad, dove addestravano le forze armate locali, in un altro posto più sicuro. Al via oggi le iscrizioni scolastiche online per le superiori. Quasi la metà degli studenti è indeciso cosa scegliere tra licei, istituti tecnici e professionali. Ne parliamo tra poco a Effetto Giorno. Incidenti stradali causati dall'alcol. Negli Stati Uniti è già attivo un sistema di blocco automatico dell'auto. In Europa sarà obbligatorio tra 2 anni. Come funziona lo scopriamo tra poco. Vola al cinema Checco Zalone con oltre 30 milioni di incassi. È il re delle feste al cinema. Tredici e 15 minuti e con noi Gerardo Peloso, inviato del Sole 24 Ore. Gerardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Recentemente hai fatto visita alle forze armate italiane presenti proprio in Iraq ed è notizia delle ultime ore che sarebbero trasferite quelle almeno di stanza a Baghdad in un altro posto più sicuro dopo quello che è accaduto, come sappiamo, l'uccisione del generale Soleimani proprio a Baghdad in Iraq da parte degli Stati Uniti, la tensione che è salita di nuovo. Gerardo, a quale missione internazionale partecipano questi militari italiani che stavano a Baghdad e soprattutto cosa sappiamo di questo spostamento? Bisogna fare un po' di chiarezza. Allora, l'Italia partecipa alla missione della coalizione anti-Daesh, anti-ISIS, di cui è praticamente il secondo contributore dopo gli Stati Uniti. Parliamo in tutto di circa 900 uomini dispiegati tra Erbil, il Kurdistan iracheno, ovviamente Baghdad e poi anche Kuwait e gli Emirati. Di questi però la gran parte si trova a Erbil, oltre 600. A Baghdad alcuni militari italiani, soprattutto i carabinieri, svolgono una funzione, fanno parte di un contingente della NATO e sono questi che sono stati interessati ieri, nei giorni scorsi, a un trasferimento, ma è un trasferimento da Baghdad su Baghdad, all'interno della città. Si trovavano cioè nella cosiddetta training mission della NATO, quella, per capirci, che è vicino a quella piazza dove sono le due grandi sciabole che si vede sempre nelle immagini televisive, a una zona molto più protetta che è quella di Camp Dublin, vicino all'aeroporto, e più facilmente tutelabile e si può proteggere meglio. Perché questo? Perché in realtà la NATO, seguendo un po' un comportamento che è lo stesso dell'Unione Europea, quando si trova di fronte a un rischio di possibili attentati, sospende le attività. Non le annulla, ma le sospende. È quello che ha fatto la NATO nei giorni scorsi, e questo trasferimento è il frutto di quella decisione politica della NATO. Quindi, mentre rimangono invece il grosso degli uomini nostri a Erbil, rimane ancora in attività, ma quella è la coalizione anti-ISIS, dove ovviamente l'Italia ha un ruolo importante e per il quale è prevista anche una riunione in marzo a Roma di tutta la coalizione, di cui fanno parte oltre 80 paesi. Ecco, sui giornali di oggi ci sono delle interviste, per esempio, a esponenti locali iracheni e politici che chiedono alle forze militari italiane di rimanere proprio in Iraq, quindi facendo una distinzione anche tra quello che è il contingente americano e quelle che sono le altre forze europee. Come cambia, tu che sei stato da poco in Iraq, secondo il tuo punto di vista, anche lo scenario dopo quello che è accaduto nelle ultime ore, proprio per quanto riguarda la stabilità dell'Iraq e la presenza italiana in Iraq? Ma innanzitutto la presenza d'Italia, soprattutto per quello che è il lavoro che è stato fatto per l'addestramento dei Peshmerga nel Kurdistan iracheno e poi per la tutela della diga a Mosul. Adesso il problema non c'è perché è stata liberata dall'ISIS, però sono state delle operazioni per le quali il ruolo dell'Italia è stato molto apprezzato dalla comunità locale. Lo stesso lavoro che sta facendo unica l'Italia per quanto riguarda l'addestramento nelle operazioni di ordine pubblico, che ovviamente i militari italiani, soprattutto i carabinieri italiani, riescono a fare molto meglio degli altri contingenti, pure questo è stato molto apprezzato, anche perché il governo Mahdi in Iraq adesso sta in una fase veramente di grandi problematiche, molto critiche, e ovviamente con moti di piazza che hanno bisogno di una risposta adeguata e non soltanto militare. Grazie Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore, grazie per essere stato con noi. Dunque, queste erano le notizie riguardo al contingente italiano in Iraq. Precisiamo che i militari che sono stati trasferiti sono quelli, i carabinieri, la pattuglia di una cinquantina di carabinieri che stavano a Baghdad, trasferiti da vicino alla sede americana in un'altra sede. Niente cambia per il momento per tutte le altre forze italiane che sono nel paese. 13:20 minuti, adesso un pezzo davvero importante perché stiamo parlando di un sistema che può salvare delle vite umane. Parliamo di incidenti stradali e guida in stato di ebbrezza. La cronaca ci sta fornendo, ahimè, troppe notizie proprio in queste ultime settimane. Ecco che cos'è e come funziona Alcol Lock, il dispositivo che impedisce l'accensione dell'auto se il conducente ha bevuto, un sistema che è già attivo in alcuni paesi. Maria Luisa Pezzali. I tragici episodi di cronaca di questi giorni hanno drammaticamente riportato sotto i riflettori il tema degli incidenti stradali e della guida in stato di ebbrezza. Tra le misure messe in campo per contenere il fenomeno c'è il cosiddetto alcolock, il dispositivo che blocca il motore impedendo l'accensione dell'auto se viene rilevato un tasso alcolemico del conducente superiore al limite consentito. Ma come funziona e quanto è affidabile? Lo abbiamo chiesto a Massimo Tarallo di Dräger, la multinazionale tedesca principale fornitore di alcol test per le forze dell'ordine italiane, che produce anche alcolock. Sono dei veri e propri etilometri che analizzano l'espirato, che vengono collegati tramite un'apparecchiatura elettronica all'accensione dell'automobile. Esistono degli optional su queste apparecchiature che sono delle videocamere che vanno a matchare praticamente il riconoscimento facciale. Se non è abbinato a quello che è il guidatore, l'automobile comunque non parte. In Italia non sono assolutamente diffusi. Che io sappia, c'è una sola compagnia di autobus che ha deciso di montare sulla sua flotta praticamente questo genere di apparecchiatura. In Italia, tra le modifiche previste al nuovo codice della strada, tuttora in fase di discussione, l'alcolock non compare. Da metà 2022, così ha deciso l'Unione Europea, dovranno però esserne dotati tutti i nuovi veicoli a motore. In Europa, intanto, ogni paese ha scelto strade diverse. Svezia e Finlandia hanno adottato volontariamente l'obbligo dell'alcolock sui veicoli per il trasporto pubblico. Polonia, Danimarca, Austria, Belgio, Francia, Regno Unito, Portogallo e Germania su tutti i mezzi commerciali pesanti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ecco, speriamo che l'adozione anche in Europa come standard obbligatorio di questo alcol lock acceleri anche il suo percorso e possa diventare davvero uno standard di sicurezza il prima possibile. Adesso un altro argomento annunciato nei titoli e riguarda l'iscrizione alle scuole superiori, l'iscrizione che è possibile realizzarla a partire da oggi online. E allora ne parliamo con Carmela Palumbo, capo dipartimento per il sistema di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, parliamo del... Ci chiarisca anzi i termini. Chi è che può iscriversi a partire da oggi e come si fa l'iscrizione online per le superiori? Sì, allora l'iscrizione riguarda le prime classi sia della scuola primaria che della scuola media che delle scuole superiori. L'iscrizione viene effettuata, quindi non riguarda le classi intermedie, quindi, perché lì avviene d'ufficio, e viene effettuata a cura delle famiglie, dei genitori, basta uno dei genitori o di chi gestisce comunque la patria potestà. E è richiesta una registrazione preventiva, e qui basta avere il codice fiscale e una mail per ricevere le credenziali di iscrizione. Chi ha già una identità digitale per accedere ai servizi pubblici, lo SPID, può procedere invece direttamente con le iscrizioni. E una volta acquisite le credenziali, quindi o avendo quelle SPID o a seguito della registrazione, è possibile procedere all'iscrizione attraverso il sito o il nostro portale Scuola in Chiaro. E lì occorre avere il codice della scuola, che è reperibile sempre su questo sito. Mm-hmm. E i dati anagrafici del figlio. È una procedura molto semplice, già molto collaudata. Ok, meno male. Senta, Tessa Palumbo, questo qui della scelta in particolare delle superiori è un momento molto delicato, perché sappiamo, ce lo dicono una serie di studi, ma anche l'evidenza, c'è una grande distanza tra quelle che sono le aspirazioni dei ragazzi e delle famiglie e quello che poi è la realtà, per esempio poi nella vita reale del mondo del lavoro in particolare c'è una grande richiesta di studi scientifici, pochi invece iscritti ai tecnici, che invece offrono maggiori posti di lavoro al termine del percorso scolastico. Le famiglie credo che dovrebbero fare un ragionamento su questo, naturalmente insieme ai loro figli. Poi c'è anche da dire che i ragazzi, i bambini da giovani, io ho due figlie piccole, sono molto fantasiosi, chi vuol fare il pompiere, chi l'agricoltore, chi lo scienziato. Poi poi chissà perché finiscono tutti a fare studi umanistici, a cercare posto di lavoro intellettuale, posto fisso. Al di là di questi ragionamenti, c'è un momento di orientamento efficace per i 14enni, i 13enni che devono fare questa scelta molto difficile? Devo dire che quest'anno i servizi per l'orientamento sono stati molto capillari nelle scuole, c'è stato parecchio collegamento tra scuole del primo ciclo e quelle del secondo ciclo, anche un'inchiesta, un'indagine che ha fatto ScuolaNet proprio in questi giorni attesta che sostanzialmente tutti i ragazzi, io la chiamo ancora scuola media, diciamo così, hanno avuto delle azioni, delle attività una volta all'orientamento, che non è la semplice così spiegazione di quelli che sono i percorsi della scuola superiore, ma in genere è consistita in qualcosa di più Ma lei ritiene che possano essere efficaci questi momenti? Perché almeno i dati che abbiamo a disposizione dicono appunto questo, che c'è una sopravvalutazione degli studi umanistici rispetto a quelli tecnici, che sembrerebbe proprio per le possibilità poi reali di sviluppo di una professione, sembrerebbe una scelta irrazionale, non motivata da basi reali. Allora come mai invece poi è questa la scelta secondo lei? Ovviamente l'orientamento è un fenomeno molto complesso sul quale agiscono tanti fattori, le famiglie, il riconoscimento sociale, l'autostima che si ha, cioè veramente ci sono tanti aspetti che incidono sulla scelta. E sicuramente quella che noi chiamiamo la licealizzazione spinta che si sta verificando negli ultimi anni, ricordiamo che circa il 52-53% degli studenti negli ultimi anni ha scelto un liceo, circa il 30%, più del 30%, in ordine al 35% ha scelto invece gli istituti tecnici, e poi abbiamo come fanalino di coda i professionali e la formazione professionale come numeri, come quantità. Questo fenomeno, diciamo, della scelta sempre più alta dei licei è dovuta in particolare, io credo, ad una volontà di rimandare la scelta vera e propria. Cioè ci si tiene decisione più a porte aperte possibile, quello che consente il liceo scientifico, e si rimanda. Sì. Allora, ovviamente incide però, molto. Però scusi Palumbo, anche possiamo anche dire che per alcune categorie di persone rimandare questa scelta e allungare i tempi della formazione può anche essere una scelta economicamente impegnativa per alcune famiglie. Questo anche certamente. Perché poi costa il percorso di formazione extra. Chiaro. Lo è senz'altro anche perché molti percorsi di scuola superiore poi richiedono comunque un'iscrizione universitaria, perché non portano un titolo di studio immediatamente spendibile sul mondo del lavoro, mentre i titoli di studio dell'istruzione tecnica in particolare hanno questa doppia valenza, sia quella di fornire una formazione, diciamo così, di base generalista, chiamiamola così, di base solida, e sia di permettere comunque già di specializzarsi su alcuni con le materie chiaro di indirizzo, su alcuni percorsi. Chiaro, quindi tra un liceo scientifico o artistico fatto per vivacchiare e un liceo tecnico scelto bene con delle prospettive magari occupazionali sul territorio, non c'è dubbio che la seconda scelta è da valutare per le famiglie che ritengano questa un'opzione possibile per i loro figli. Grazie alla dottoressa Carmela Palumbo, grazie per essere stata con noi. 13:29, facciamo un piccolo break, torniamo tra poco con Effetto Giorno e tutte le altre notizie. Vi ricordo, per commentare quello che avete sentito sin qua, 349-238-666. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta un'auto elettrica. Avete appena sentito un'esclamazione di stupore di alcuni sherpa peruviani di fronte a una Smart elettrica. E basta ridere. In effetti, che ci faceva sulla cima di una montagna? La cosa più bella da fare con una Smart elettrica è guidarla in città. Nuova Smart Q42, All Electric Now. 100% elettrica, 100% per la città. Guidala subito con My Mobility Pass, il noleggio Mercedes-Benz tutto incluso, con zero anticipo e wallbox. Datti una scossa su smart.com. Smart. Per valorizzare un buon piatto scegli il vino giusto. Per valorizzare la tua casa scegli l'arredo migliore. Per valorizzare i tuoi risparmi scegli che banca. Conto deposito 1% annuo lordo sulla nuova liquidità vincolata a 6 mesi. Offerta valida per vincoli effettuati entro il 29 febbraio 2020. Con il supporto dei nostri consulenti trova le soluzioni di risparmio e investimento adatti ai tuoi obiettivi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non costituisce una sollecitazione né una raccomandazione di investimento. Fogli e documenti informativi su chebanca.it. Che banca. Gruppo Mediobanca. Effetto giorno. Iran, 40 morti nella calca per la sepoltura del generale Soleimani. Militari italiani a Baghdad trasferiti in un sito più sicuro. In Libia assiste battaglia tra le forze di Sarraj e quelle di Haftar. Stasera vertice europeo straordinario, annuncia Di Maio. Al via oggi le iscrizioni scolastiche online per le scuole superiori, quasi la metà degli studenti è indeciso su cosa scegliere. 10 anni fa la rivolta dei braccianti immigrati a Rosarno, stranieri sfruttati e nascosti tra tendopoli e casolari ancora oggi dopo lo smantellamento della baraccopoli. Vola al cinema Checco Zalone con oltre 30 milioni di incassi, è il re delle feste al cinema. Eccoci qua, 13:35 minuti, di nuovo buongiorno Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno. Quello che avete sentito sono i titoli principali delle notizie di oggi. I vostri messaggi al 349-238-6666, anche su Facebook e su Twitter se volete. Velocemente, allora, intanto un messaggio di Stefano sull'alcol lock. È vero che le assicurazioni dovrebbero applicare uno sconto a chi lo installasse già? Non lo sappiamo, io personalmente non so se è così, però ci informeremo e ve lo faremo sapere. In effetti è qualcosa di simile a quello che è accaduto per la cosiddetta scatola nera, che ha avuto un'applicazione del genere in particolare credo in Lombardia, ma non sono sicuro. Ci informiamo e vi faremo sapere. Poi sui militari italiani, per esempio in Iraq, il messaggio di Giacinto: i nostri soldati non servono a, non specifico, ci costano una barca di soldi in cambio di nulla. Questo io lo leggo così come arriva, così come Grazia, sempre su Facebook, scrive: penso che i ragazzi devono tornare a fare il servizio militare. Un messaggio a cavallo tra la questione dei militari, forse anche la questione della scelta delle scuole e del futuro dei giovani. Grazie, lo pensano in tanti che si debba tornare al servizio militare, alcuni parlano di servizio civile, io per esempio ho fatto quello. Un anno di servizio civile, un anno che è stato sicuramente molto formativo. 349-238-6666 per scrivere ancora. Intanto torniamo a ieri, 6 gennaio 2019, ma il 6 gennaio del 1980 veniva ucciso a Palermo l'allora presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella, fratello dell'attuale capo dello Stato. A distanza di 40 anni emergono alcune novità sulle indagini per quell'assassinio. Ce ne parla Daniele Biacchesi. Il 6 gennaio 1980 un killer uccide il presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella, in Via della Libertà a Palermo. È alla guida di un'auto e la moglie Irma Chiazzese siede accanto. Un giovane dai capelli biondi, un piumino azzurro, occhi di ghiaccio, scende da una vettura, spara 4 colpi, la pistola si inceppa e quindi si fa dare un'altra arma da un complice con cui, con altri 4 colpi, spegne gli occhi di Mattarella. I processi stabiliscono la colpevolezza dei Serina, Greco, Brusca, Provenzano, Calò, Madonia e Gerace. Durante il dibattimento la moglie di Mattarella indica il capo dei NAR Fioravanti come l'esecutore materiale dell'omicidio, che tuttavia viene assolto. 40 anni dopo il killer rimane sconosciuto e le nuove inchieste della Procura di Palermo partono da una Colt 38 modello Cobra, lo stesso calibro con cui il militante dei NAR Gilberto Cavallini uccide il giudice Mario Amato a Roma il 23 giugno 1980. Secondo i carabinieri i proiettili sono coincidenti. Non solo, sono stati desecretati i vecchi verbali di un'audizione di Giovanni Falcone davanti all'antimafia, dove viene avvalorata la tesi della pista nero-mafiosa dietro l'omicidio. La sensazione è che a meno di colpi di scena, a distanza di così tanto tempo, sarà difficile stabilire una verità provata. Forse perché manca una volontà politica, come è avvenuto in altre vicende analoghe della storia d'Italia. Come annunciato nei titoli, torniamo a Rosarno a 10 anni esatti dalla rivolta dei braccianti immigrati. Ricorderete, fu la prima di alcune rivolte che poi ci sono state anche successivamente, ma ci sono state poi anche delle vittime in quella terra per queste situazioni. Parliamo di rivolte contro lo sfruttamento, il caporalato, la violenza con cui queste persone vengono trattate dai caporali, ma anche dall'andrangheta. Dopo 10 anni, dicono molti rappresentanti locali, non è cambiato molto, e anche se è stata recentemente smantellata la baracca di San Ferdinando, i problemi rimangono. Adesso ce lo spiegherà il sindaco di San Ferdinando, Andrea Tripodi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno anche ai radioascoltatori. Allora, la famosa baraccopoli di San Ferdinando, nella quale vivevano più di 3.000 persone, che è stata smantellata il 6 marzo del 2019. Oggi però sappiamo che tanti problemi sono ancora lì sotto, o forse un pochino più nascosti, ma comunque davanti ai nostri occhi. Però perché ci sono ancora tanti stranieri che lavorano tramite il caporalato e che abitano alloggi di fortuna in situazioni al limite da tanti punti di vista. Però torniamo per un attimo a quel momento, marzo 2019, quando è stata smantellata la baraccopoli. Cosa è successo nel frattempo? Insomma, c'è stato lo smantellamento della baraccopoli, molti si sono allontanati spontaneamente, altri poi hanno trovato una loro collocazione nelle campagne circostanti. Poi in seguito ai decreti Salvini sono diventati degli invisibili veri e propri, invisibili ma esistenti, perché si trovano nelle campagne intorno a Taurianova oppure a Rizziconi e hanno costituito delle baraccopoli piccole di numero ridotto che vanno dai 250 ai 300, ma le loro condizioni di vita sono, come diceva lei prima, in una condizione di degrado quasi estremo. Quindi la situazione è cambiata molto poco, per molti aspetti si è addirittura anche aggravata. Ecco, sindaco Tripodi, ma insomma, cerchiamo di capire, di affrontare questa questione, che mi sembra sia una questione che si affronti poco, che non si voglia. Non meglio che di poterle discutere. Assolutamente, dal suo punto di vista immagino di sì, però perché mi sembra che nel racconto che facciamo, se in Italia c'è un modello di sviluppo basato su decine, migliaia, anche di persone, alcune stime calcolano lavoratori in nero sfruttati dal caporalato in agricoltura, centinaia di migliaia, forse milioni di persone in tutto il paese. Questa situazione mette per esempio fuori mercato il lavoro in agricoltura da parte di persone che vorrebbero avere uno stipendio normale ma non sono ricattabili perché non sono clandestini come lo sono molti di queste persone, allora dobbiamo davvero cercare di affrontare questa questione. Ma per esempio, quali sono i profili delle aziende in cui lavorano queste persone? Aziende con profili di illegalità o anche attraverso varie intermediazioni poi si arriva alla fine a cascare in aziende normali, regolari, quelle che poi forniscono i supermercati, noi andiamo a fare la spesa e prendiamo i pomodori che sono stati trattati da queste persone, così? Sì, guardi, prima dell'aspetto economico, dell'aspetto commerciale, io vivo come un bruciore le condizioni di vita anche di questi ragazzi, di questi braccianti, ed è stato per questo che appena mi sono insediato io ho voluto la tendopoli per interrompere una condizione di degrado che si trovava nella baraccopoli, e naturalmente quella era una soluzione non esaustiva, temporanea, no, alla quale avrebbe dovuto poi seguire una soluzione, diciamo, più concreta e più aderente. Ecco, ma quale potrebbe essere, sindaco, una soluzione diversa dalla tendopoli? Perché all'erano stati annunciati anche dei fondi, però siamo sempre lì al bivio, sono persone clandestine, irregolari, quindi non possono avere un contratto di lavoro, di locazione, di una casa, però sono persone a cui va garantito un alloggio. Se non con una tendopoli, come? Sì, ma guardi, questo è un problema che io ho sollevato e ho fatto delle proposte concrete anche alla Regione Calabria, così come al Governo nazionale, perché questa, la presenza dei migranti poteva essere un'occasione per la Regione Calabria per uscire da una condizione anche di marginalità. Sì. e di deprivazione, specialmente quest'area. Noi ci troviamo nella piana di Rosarno, che è forse una delle aree più deprivate della Calabria. E quindi sì, però scusi, da sindaco, questo... se lei avesse la bacchetta magica, no? Come penserebbe di risolvere questa questione dell'alloggio dei braccianti? Sì, il problema è quello di un'accoglienza diffusa che deve essere sostenuta anche naturalmente da provvedimenti dello Stato, ma soprattutto che riceva il conforto del lavoro. Perché senza il lavoro si potrebbero creare dei problemi anche di carattere di tensione sociale. E quindi avevo avanzato la proposta di operare un ripensamento complessivo anche della piana, in modo da fare una pianificazione, una programmazione pure del territorio che seguisse un modello autopropulsivo. Proviamo, sindaco, a rilanciare questo suo appello. Io la ringrazio per essere stato con noi. Naturalmente in questo spazio non c'è tempo per andare molto oltre la cronaca, è un primo commento, ma insomma ci accodiamo alla richiesta del sindaco di San Ferdinando, alle istituzioni, alle autorità. All'epoca, quando ci fu lo smantellamento della baraccopoli, lo ricorderete, c'erano tutti i ministri a dire bene. Adesso però una soluzione va comunque trovata. Eccoci qua alle 13:45 minuti, rapidamente per le anticipazioni del pomeriggio sportivo. Carlo Genta, ciao Carlo, ben ritrovato. Ciao. Ieri si è chiuso il campionato a Serie A, oggi sì. Che... Beh, insomma, oggi è come se fosse lunedì, abbiamo tutti i risultati di questa prima giornata dell'anno, che ci dicono come Juventus e Inter continuano a correre a paiate con i loro bomber in grandi condizioni. È stata una giornata da bomber, un sacco di gol e praticamente tutti gli attaccanti a segno, salvo Dzeko della Roma e il più atteso, cioè Zlatan Ibrahimovic, nello 0-0 bruttissimo della Milan ieri contro la Sampdoria. Quindi questi era fuori forma, altri, qualcuno ha detto che era fuori forma. Ma no, fuori Milan che è fuori forma. Cosa inguardabile. In tutta onestà, il Milan, insomma, squadra, una delle squadre che ha vinto meno in casa, una delle squadre che ha segnato meno, quarto peggior attacco in Serie A, è una squadra che in questo momento non riesce neanche a dare a Ibra forse la possibilità di segnare, ma non lo so, vediamo e ne parliamo. 349-238-6666 WhatsApp vocale, sentiamo cosa dicono gli ascoltatori. Grazie Carlo, appuntamento con tutti i convocati dopo il GR delle 14. Facciamo un piccolo break, torniamo tra poco con Giulia Crivelli e i giornali internazionali.